Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. In primo piano il vertice europeo di Riga in Lettonia. Riuniti a Riga per un vertice dedicato al partenariato orientale, i 28 si sono dati due obiettivi, oltre che quello di rafforzare le relazioni con Azerbaigian, Armenia, Georgia, Moldavia, Bielorussia ed Ucraina. Da un lato risolvere la crisi greca e dall'altro rasserenare i rapporti con la Russia. Difficile che l'Unione riesca a raggiungere gli obiettivi nel breve termine. Mentre sui rapporti con Mosca continuano a predominare le differenze tra gli Stati membri, con i paesi dell'Est sempre molto cauti nei confronti della Russia, sulla Grecia l'incontro tra il premier greco Alexis Tsipras, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande è terminato ieri sera con un nulla di fatto. Le trattative tecniche tra Atene e Bruxelles continuano per permettere alla Grecia di ottenere nuovi aiuti ed evitare il tracollo finanziario, ma il divario tra le parti rimane ampio. Beda Romano, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Riga. E a Riga è rimbalzato anche il tema dell'immigrazione, in particolare le polemiche sulle quote per la divisione dei migranti fra i vari paesi europei. Sentiamo su questo il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Io credo sia fondamentale che l'Unione Europea riesca ad arrivare a una posizione comune sull'immigrazione e mi aspetto che la Commissione la prossima settimana con la sua proposta legislativa confermi le ipotesi formulate nell'agenda, anche quantificando il numero di rifugiati oggetto di ricollocazione, e su questo si aprirà una discussione, un confronto, speriamo in esiti positivi, ma tanto il passo della Commissione sarà importante. Mi preoccupa il diffondersi di posizioni che non tengono fino in fondo in conto la necessità di condividere lo sforzo. Però facciamo un passo alla volta. Se il 27, come io credo, la Commissione confermerà, in più precisandone i numeri, l'impostazione dell'agenda europea, c'è già un sostegno, credo, potenziale molto forte da parte del Parlamento europeo, si aprirà una discussione e spero che alcune posizioni possano alla fine trovare un compromesso. Vi sono forti argomentazioni perché la governance sulle riforme strutturali sia esercitata congiuntamente a livello dell'Eurozona, lo ha detto il presidente della BCE Mario Draghi parlando a Sintra in Portogallo. Draghi ha definito le riforme nazionali un legittimo interesse dell'intera Unione. Entrano in vigore le misure europee anti-xylella fastidiosa che sta falcidiando gli ulivi pugliesi. Ieri la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Bloccare il contagio della xylella. È questo l'imperativo della decisione di esecuzione della Commissione europea pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale UE. Confermata l'eradicazione di tutti gli ulivi, sani e malati, se nel raggio di 100 metri c'è una pianta infetta accertata. Misure radicali che riguarderanno solo i nuovi focolai e solo una fascia di 20 km a nord di Lecce. Stretta sorveglianza ma non estirpazione degli ulivi per un'ulteriore area cuscinetto di 10 km dove saranno effettuate ispezioni annuali. Azioni di contenimento invece per Lecce riconosciuta ormai come zona infetta. Qui l'eradicazione non sarà obbligatoria. Tra le altre restrizioni il divieto di importazione di vegetali da Costa Rica e Honduras e di spostamento di qualsiasi pianta da aree contagiate. Soluzioni che tutti gli stati membri dell'Unione dovranno adottare. La Francia, che aveva già elaborato un piano nazionale, dovrà abrogarlo o adattarlo a quello europeo. Protestano però gli agricoltori per i quali la Commissione europea sta già studiando un piano di indennizzi. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.